8. Ascolta e controlla. 1. Il pianeta è freddo. 2. Ci sono molti pianeti freddi? 3. Il sistema è moderno. 4. Questi sistemi sono innovativi. 5. Non conosco questo nuovo programma. 6. Quali sono i tuoi programmi per oggi? 7. Questo libro è di un poeta molto giovane. 8. I poeti sono famosi in tutto il mondo. 9. Posso vedere il tuo diploma di maturità? 10. Dove sono i loro diplomi? 11. Da questa terrazza possiamo vedere un panorama magnifico. 12. Qual è il problema? 13. Non ci sono grandi problemi qui. 14. Il Papa è argentino. 15. Regalerò a mio nipote un pigiama.